Il punto di Stefano Folli. È molto chiaro e perentorio l'intervento di Napolitano in difesa di Saccomanni, il ministro dell'economia che non ha la bacchetta magica, vale a dire che fa quel che può in una situazione molto difficile. Il capo dello Stato vuole puntellare il governo dalla pressione di quei settori del PDL che parlano come se fossero all'opposizione e contestano non solo Saccomanni ma anche Letta e lo stesso Alfano. Naturalmente Berlusconi potrebbe mettere a tacere questi cosiddetti falchi in un secondo se volesse, ma evidentemente non vuole. Lui è la moderazione fatta persona ed è sempre il primo a garantire appoggio e sostegno al governo, ma poi lascia che i suoi, almeno alcuni, Brunetta, Santanché e altri, attacchino la grande coalizione. È un doppio binario con cui dovremo convivere ancora a lungo, almeno fino alla sentenza della Cassazione su Mediaset, ma che può diventare davvero distruttivo.